programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Non ci sono più, è confermato, ma poi capiremo anche il perché. Ogni volta vi tiro fuori una metafora, ma oggi siamo un po' più oggettivi dal punto di vista climatologico. Però che cosa c'è di meglio in realtà che iniziare una trasmissione come questa, che lo sapete ormai tanto, tantissimo tempo, è concentrata sulle notizie della settimana, che non appunto iniziare con una bellissima notizia. È stata liberata la cooperante Rossella Urru, che per 4 mesi è stata dopo 4 mesi è stata rilasciata in Mali, e la notizia è stata confermata anche da carabinieri familiari, quindi finalmente libera. C'è stato uno scambio con un terrorista tuareg, insomma ci sono questi compromessi, l'importante è che sia libera e torni sana e salva. Quindi già iniziamo con una buona notizia e quindi mettiamoci già di buon umore. Poi dicevamo, le notizie comunque sono sempre tantissime, sapete, questo è il mio appuntamento con voi ogni sabato dalle 14 alle 15 per dirci un po', raccontarci le notizie della settimana, ma soprattutto esprimere liberamente le opinioni su tutte le cose che avete letto, sentito, guardato, eccetera eccetera. 800 24 00 24 è il numero verde, numero gratuito per chiamare, 800 800 24 00 24. La primavera incomincia a dare qualche defiance anche a me. Ma quali sono le notizie principali? Io me ne riassumo sempre qualcuna, poi potete tirar fuori tutte quelle che volete, basta che siano di interesse generale naturalmente. E la TAV, no? Con tutto quello che c'è stato in questa settimana rocambolesca e convulsa, e poi ieri il vertice a Palazzo Chigi in cui Monti ha detto basta, noi tiriamo dritto, sì, cercheremo di avere un dialogo, però niente violenze, solo legalità. Poi ovviamente una gravissima scomparsa nel mondo della musica, ma non solo, della cultura, e anche si potrebbe dire, senza fare troppo i snob, della cultura più popolare, quindi più autentica anche nel nostro paese, quindi la scomparsa di un cantautore come Lucio Dalla. E poi, se vogliamo anche muoverci un pochino fuori dai nostri confini, quello che continua a succedere purtroppo in Siria, con un bagno di sangue quotidiano, la comunità internazionale che ha un po' di difficoltà a intervenire, forse perché ci sono i veti di Russia e Cina, forse perché non c'è il petrolio, insomma, comunque la situazione per ora è questa. Poi in Iran ci sono elezioni legislative, chissà quanto libere. In Russia le presidenziali domani, con Putin che dice io sono dalla parte della democrazia, è proprio un campione di democrazia che si assicura forse 24 anni di presidenzialismo continuato tra primo ministro e presidente. Non so se ci sia una vera opposizione, se si possa candidare davvero un oppositore in Russia, e poi se ci possa essere un'alternanza, insomma. Poi per quanto riguarda l'Italia, il lavoro continua a essere il cruccio principale. La disoccupazione ha toccato livelli record dal 2004, un giovane su tre è senza lavoro. E poi tutte le questioni anche di politica, questa gran coalizione di cui ha parlato a un certo punto Berlusconi in questi giorni, tutti insieme appassionatamente, poi se è un po' corretto, insomma. Poi cerchiamo di capire anche tra pochissimo con l'opinionista estemporaneo di oggi, che tutte e tutti avete atteso con molta aspettativa, e quindi si crea questa aspettativa intorno tra pochissimo al nome che pronuncerò. Ma dicevamo, il rito di confermarci ogni settimana il perché non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, neanche le intere sono un granché. Ecco, ogni volta c'è una metafora, c'è un segno dei tempi, un fatto che ci dice che effettivamente le cose cambiano. Questa volta starò proprio su aspetti, dicevo, meteorologici. Marzo pazzo, si dice pazzerello, marzo pazzo, questo è pazzo dalle gare, matto dalle gare. Siamo passati da un meno 7, 8, meno 5 a seconda delle regioni. Ieri a Milano 24 gradi e mezzo, cioè si andava in giro in bikini praticamente, no? Cioè, per una questione di decoro magari si metteva su un foulard, però per dire come le cose, ecco. Non ci sono più le mezze stagioni, una stagione di passaggio non c'è stata, forse ci sarà dopo, nel senso che si intercalano in un modo un po' disordinato. E poi invece a confermarci che ci sono sempre le mezze stagioni, cioè che le cose non cambiano in Italia, anche questa settimana almeno 2 omicidi femminili, uno a Napoli, un agente di polizia che ha ucciso la moglie ieri, e poi a Milano, e poi anche un'altra cosa a Milano, un'aggressione con tentato omicidio dell'ex partner sulla sua ex compagna, che per fortuna non è riuscito, anche se lei è in gravi condizioni. Quindi le cose, possiamo stare tranquilli, vanno sempre più o meno in modo simile. Ma signore e signori, l'avete tanto atteso, chi è l'opinionista estemporaneo di oggi? Corrado Augias. Corrado? Yes. Pronto, Corrado? Yes. Dove sei? In Stati Uniti? No, sto a Bologna. Ah, stai a Bologna. Sì, sì. Sei a Bologna perché sei ai funerali di Lucio Dalla? sì, no, avevo qui un impegno di lavoro e allora ovviamente questa mattina sono andato a rendere omaggio a Dalla e devo dire ho trovato uno spettacolo commovente, inaspettato, grandioso, con una calma, una serietà, un silenzio, un ordine tipico dell'Italia migliore, sfilava praticamente tutta la città. Senti, qualcuno ha detto si fa un po' troppo retorica, anche Francesco Merlo da Repubblica ieri diceva ma a volte santifichiamo i morti per poter trattare male i vivi, secondo te? Ma no, insomma, sono contrario, ci sono dei momenti di commozione vera, io poi non è che sono un patito della musica leggera, però ci sono dei momenti di commozione vera che vanno rispettati, presi per quello che sono, senza cercare sempre di trovare il controcampo, diciamo. Alle volte il controcampo non va cercato. Tu hai una canzone preferita, se dovessi dire, di Lucio Dalla? Ci hai pensato in questi giorni? A me piace Attenti al lupo, non so perché. È allegra, è piuttosto giusto. Allegra è una cosa a metà tra la melodia, melodico e jazz, insomma, mi piace. Un ritmo piuttosto originale. Corrado Augias ha appena pubblicato un libro, Il disagio della libertà, che ci riguarda molto da vicino, insomma, è una lettura di tanti anni della nostra storia, della storia italiana. Il sottotitolo del libro pubblicato da Rizzoli, non per niente, è Perché agli italiani piace avere un padrone. Tu fai questo excursus sul ventennio, dagli inizi degli anni 20 del Novecento fino all'anno scorso, alla caduta del governo Berlusconi, perché tu includi anche il governo Berlusconi in questa, chissà perché, esigenza degli italiani di avere comunque un qualcuno che li guidi in modo autoritario, anche se dici poi i paradossi sono che gli italiani sono degli anarchici, pecore anarchiche, no? Diceva Montanelli, nel senso che però l'evasione fiscale, gli abusi edilizi, fare i furbetti, no? Ognuno poi nel proprio privato cerca di fare un po' fuori dalle regole, però bisogna avere questa specie di autorità autoritaria. E così corretto. Beh, intanto due precisazioni. Una, che non faccio nessun paragone diretto, anzi sottolineo le diversità, certo, tra Mussolini e Berlusconi. La seconda è che è vero che prendo in gli ultimi 90 anni, dove ci sono 20 anni di fascismo e 20 anni di governo tendenzialmente autoritario, sono stati il pretesto del libro, ma poi io le ragioni in realtà le vado a cercare lontano. Comincio da Dante, passo attraverso Machiavelli, Guicciardini, quel po' di illuminismo che c'è stato, arrivo a Piero Gobetti. Non è un'analisi storica, è il racconto soggettiva di un cittadino che si pone certe domande. Roberta, volevo farle una proposta. Sì. Siccome io sono ancora praticamente a Piazza Maggiore, sono appena uscito dal palazzo, dal municipio di Bologna, io vorrei riguadagnare un telefono fisso dove ci metterò circa un quarto d'ora poi ristabilire questo collegamento. È possibile? Corrado, senti, se tu riesci ad aspettare 4 minuti che c'è la viabilità, almeno guadagniamo quei 2 minuti di viabilità e mi levi meno tempo, perché la gente, tu non hai idea di che attesa c'era intorno alla tua presenza oggi qui, non ci sono più le mezze stagioni, quindi non vorrei deludere le ascoltatrici e gli ascoltatori. Che dici? Non ho capito, io che faccio? Resto in linea? Sì, resta almeno in linea fino alla viabilità, lì guadagniamo quei 2 minuti di viabilità, poi se riesci a fare il prima possibile a guadagnare il telefono fisso, perché se no, dicevo, c'è stata una tale aspettativa degli ascoltatori intorno alla tua presenza. Non ho una parola di più. Noi vogliamo deludere, va bene? Benissimo. Alle volte capisco. Alle volte capisci benissimo. Senti, allora ti faccio un indovinello, Corrado Augias, visto che tu sei un uomo di grande cultura, brillante, che a volte capisci. E qualcuno ha detto ieri, ha detto: nessuno mi sta sulle balle come Monti. Secondo te chi l'ha detto? Calderoli. Bravo. Ma avevi letto o hai indovinato, o per, diciamo, associazione mentale? Ho tirato a indovinare. Riconosco il livello del linguaggio di Calderoli. Insomma, dice che poi ha detto che la grande coalizione è un atto contro natura. Perché sai contro che Berlusconi... natura. Contro natura. Beh, veramente no, è contro la tradizione italiana, questo sì. Noi siamo un popolo litigioso, ci siamo scannati da secoli, da Mario e Silla, non so, Cesare Pompeo, poi non è mai finito, ma la guerra civile, ma in questo caso è un atto contro la tradizione, non contro la natura. Ci sono paesi dove la grosse coalizione viene adottata tranquillamente quando c'è bisogno di una grande coalizione, per esempio per uscire da un cul-de-sac o da una fogna come quella nella quale ci eravamo cacciati. A te Monti piace Corrado Augias? Sì, mi piace, lo confesso. Mi piace nella sua serietà, nella sua competenza. Ho assistito a Parigi qualche settimana fa a un incontro con Sarkozy, poi hanno fatto una conferenza stampa comune e devo dire la verità, la competenza di Monti rispetto a quella del presidente francese era trasudava, anzi ho avuto l'impressione, ma è una mia impressione soggettiva, che Monti si sia un po' tenuto per non calcare troppo la mano, diciamo. Ma sulla questione delle liberalizzazioni, no, mi viene in mente, alla fine sono stati fatti un po' di aggiustamenti, non è ancora passata del tutto, deve passare al Senato, se non sbaglio, deve compiere insomma il suo iter parlamentare, però... No, è già stata approvata al Senato, deve andare alla Camera. Alla Camera, ecco, sì, il contrario. Però... Ma sai meno che... di un terzo passaggio per la famosa questione dell'emendamento sulle banche, ma quello che dicono dovrebbe essere corretto. Però, tu sai che c'è stato l'assalto in Senato alla Commissione Industria del Senato dei lobbisti che sono stati lì dei giorni a bivaccare nei corridoi, a aspettare per far pressione, eccetera, eccetera. È forse che anche i Notav dovevano adottare una strategia del genere per avere un pochino più di ascolto? Possibile? Sì, certo. Beh, le lobby fanno il loro mestiere, premono poi la cedevolezza del... Io credo che il governo abbia ragionato in termini politici, perché questo sia chiaro, non è un governo tecnico, è un governo politico. Chiaro. Tant'è vero che è stato approvato da un voto largo del Parlamento, chiusa la parentesi. Io credo che loro abbiano ragionato in termini politici, e cioè cedendo là dove non cedere avrebbe potuto compromettere la coesione delle forze che li appoggiano. Le lobby in questo si sono infiltrate, ma vorrei dire moderatamente, a parte i tassisti che sono stati fortemente appoggiati dagli ex neofascisti, come ha confessato candidamente Pettarelli. Il capo, il leader dei tassisti, sì, ha detto che Gasparri li ha aiutati molto. Però Gasparri ha detto... e Alemanno li hanno aiutati poderosamente riassicurandosi l'elezione, suppongo. Evidentemente a questo servono, diciamo, dare appoggio alle lobby, qualunque esse siano, adesso non per parlare dei tassisti. Però ti volevo chiedere anche, Corrado, adesso che c'è stata, sai, sabato scorso la sentenza di prescrizione per il processo Mills, qualcuno dice adesso Berlusconi comincia a sperare di nuovo di correre nel 2013 per il Quirinale. Questo non possiamo dirlo oggi, perché entro 90 giorni devono uscire le motivazioni della sentenza. Se nelle motivazioni, che devono essere, come dice la parola, motivate, ci fosse che il tribunale lo ha riconosciuto colpevole e non ha potuto applicare la pena solo perché era prescritto, nella cosa le illusioni dell'ex presidente del Consiglio si rivelerebbero vane. Bene, questo sarà molto interessante, perché è un momento importantissimo per capire dove andrà l'Italia praticamente tra un annetto, quali sono gli scenari che si prospettano. Però mi dicono Pietro La Corte, alla parte tecnica, dice che si prospetta un collegamento, l'unico, sapete, al mondo, all'universo, che riguarda questa trasmissione, con un altro pianeta. Un po' di pazienza, Corrado, che c'è questo collegamento interplanetario. Riflessioni da Marte. C'è sempre tanto tanto materiale su cui riflettere, a guardare tutte le settimane il globo terracqueo da quassù, da Marte. C'è cospicuo materiale a ogni latitudine. Ma la preferenza qui dal pianeta marziano, scusate, ma ancora una volta, va alla penisola italica, dove in questa settimana, forse più che in altri periodi, sono emerse questioni, per così dire, di altezze e di bassezze. E l'Italia è effettivamente terra corrente alternata di bassezze e altezze che convivono, si potrebbe dire, ineluttabilmente. Così come le alte velocità inarrestabili da una parte e le lentezze esacerbanti come quelle della burocrazia o dei processi dall'altra. Ma tornando ad altezze e bassezze, non è forse straordinario che nel bel paese convivano fianco a fianco, senza stridore alcuno, gli stipendi dei dipendenti tra i più bassi del West e quelli di parlamentari e grandi manager pubblici tra i più considerevoli del globo? Lo Stivale Italico è del resto il medesimo territorio che ha dato i natali a Salvo d'Acquisto come al comandante Schettino, ma si trova comunque conforto nello scoprire che ci sono persino casi in cui altezza e bassezza sono tutt'uno. Prendete un cantautore appena scomparso, Bassetto Bassetto, che diceva di sé: «So di essere un omino buffo, ma magari fossero buffi come te tanti, tanti, tanti omuncoli che sono solo ridicoli se non fossero anche tragici, caro Lucio». Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finire dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. Torniamo con i piedi per terra. Corrado Augias mi ha fatto questa proposta indecente, come avete sentito in diretta tutti quanti. Deve staccare un attimo da Piazza Maggiore a Bologna, torna lì per causa di forza maggiore e si sposterà, speriamo in pochi minuti, speriamo di non doverlo riacciuffare alle 15. Caro Corrado, mi raccomando, al telefono fisso. E intanto abbiamo l'800 24 0024 Paolo da Biella. O Paolo. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno, come stai? Ma guarda, devo dirti, questa settimana un po' cosa così. Un'ambulanza è venuta a prendermi un giorno di questi, ma sono abbastanza in piedi adesso, seduta in questo momento. Assolutamente sì. Non ti faccio i complimenti per la trasmissione, perché sinceramente non ne hai nessun bisogno, è veramente bellissima. Molto bello anche l'inciso che hai fatto un attimo fa per quanto riguarda la... chiaramente Lucio Dalla, e hai scelto la canzone che è veramente nel mio cuore, esattamente quella, è cara, per cui hai già preso in pieno. È anche nel mio e della Marziana, come hai sentito, sì, è la più cara, sì. Questa cara per me. Dici, Paolo. Sì. No, niente, ho cercato di come posso dire, di interagire con te perché c'è questa questione della TAV in Val di Susa che è veramente un po' intellegibile, cioè... Io sono torinese, va bene, abito a Biella, però in realtà sono nato e cresciuto a Torino, 40 anni di torinesità e tutto il resto. Quindi sei lì vicino. La conosco con le mie tasche, so perfettamente qual è la morfologia del territorio, so perfettamente tutto e sinceramente non capisco perché dei ragazzi, e li chiamo ragazzi, da ambo le parti, taluni chiaramente con una divisa addosso, che si guadagnano uno stipendio e chiaramente rispondono a quelle che sono... No, le istanze dello Stato e le forze dell'ordine, quindi dici sì. Intento, assolutamente sì. E dall'altra parte però vedo altri ragazzi che sono anche loro molto motivati, eccetera. La domanda è solo una e me la chiedo e me la pongo in maniera assolutamente forte, determinata e spontanea. Ma come sono organizzati? Chi paga tutto questo apparato? Perché non è possibile. Non è possibile. Nessuno si è chiesto chi paga tutto questo. Tu dici, chi paga tutta questa organizzazione della protesta? Perché tu pensi che dietro ci sia qualcuno che finanzia con obiettivi? Molto sinceramente, io sì. Sono un tuo collega, sono un direttore di un giornale e sono una persona molto abituata a organizzare. Possiamo sapere quale giornale? Biella Style Motori, che è un caso unico in Italia di una free press di lusso che in questi anni di crisi durissima è riuscita a nascere, a crescere e a sostentarsi esclusivamente di contributi pubblicitari, per cui senza nessun contributo regionale, niente, proprio ce l'abbiamo fatta. Come complimenti. Stiamo esportando il format e stiamo facendo le cose. Ti ringrazio per questo piccolo spazio che, come dire, mi hai concesso, però il punto è un altro, il punto è, io sono abituato a organizzare delle cose e mi chiedo, non è possibile che tutto questo movimento non sia organizzato da un vertice, da qualcosa che chiaramente ha un progetto, un disegno e che, guarda che i dati lo dimostrano perché la polizia postale ha fatto filmati eccetera eccetera, c'è una regia dietro, ma nessuno si è chiesto Ma io credo, Paolo, che una regia ci possa essere forse per quanto riguarda le infiltrazioni di, come dicono, di anarchici o di violenti, di chi vuole innestare su questa protesta, comunque legittima quando non è violenta, delle altre esigenze, degli altri interessi. Io non credo che tutto quanto sia orchestrato e abbia una regia protesta, occulta, sì, occulta dietro, Paolo, non credo. Certo. Il punto è questo. Allora, la Guardia di Finanza, sulla scorta chiaramente del governo Monti, sta facendo un'opera esemplare, secondo me, e dovrebbe andare avanti, andrà ancora avanti, senza spettacolarizzazioni di quello che fa, ma con molto metodo, con molta profondità, con molta puntualità. E tutto questo va bene. Ma com'è possibile che non si vadano a prendere questi e gli si chieda, ma a te chi ti ha pagato? Senti, ma a parte tutto questo, tu che cosa pensi della realizzazione dell'alta velocità? Io penso che sia comunque un'opera di progresso e di futuro e se ci fosse stato comunque preventivamente, perché questo secondo me è il tassello debole di tutta la faccenda, un tavolo di confronto con le popolazioni locali, che non sono poi quelle che stanno a lamentarsi, perché se andiamo a vedere bene, tra la gente che sta tirando le pietre addosso ai poliziotti e ai carabinieri, non ci sono molti valsusini, non ce ne sono moltissimi, sono quelli, diciamo, un tantino più, come posso dire, maneggiabili, un tantino più orientabili, ma non sono quelli, in realtà c'è un movimento dietro, secondo me, perché non è possibile. Come si diceva, Paolo, sì, appunto, per i violenti c'è una regia, per gli altri penso che siano appunto i valsusini che ma non che vogliono. Che anche delle istanze più che legittime, ci mancherebbe altro. L'importante era, e purtroppo si è persa questa occasione, di avviare un tavolo di confronto prima di cominciare tutto questo, perché secondo me comunque sarebbe stato accettato in maniera plausibile, logica, in maniera assolutamente giusta. Paolo, ti ringrazio e mi dice Miriam Lucchetti, che ha i telefoni bollenti di oggi, 800 24 0024, che c'è proprio un cittadino della Val di Susa, Davide? Sono io. Davide, sei tu. Benissimo. Allora, io sono dell'Alta Valle e sono entrato in contatto con il movimento NOTAV sin dagli inizi, peraltro non come NOTAV. Nell'Alta Val di Susa, a differenza della Bassa, il movimento NOTAV è quasi assente. Ah. Ho conosciuto poi il movimento e posso garantirvi che si condividano o meno le posizioni. Non stiamo parlando né di un gruppo con una regia occulta alle spalle, non c'è. E non c'è né per quel che riguarda il movimento in Val di Susa, che è stato fondato, guardi, i fondatori erano professori del Politecnico, la mia professoressa di religione del liceo, per dirvi quanto sono pericolosi e anarchici. Attualmente, nell'ultimo periodo, dato il totale silenzio, la totale mancanza di volontà di dialogo politico sull'argomento, perché è vero che ci sono stati dei momenti di incontro fra le diverse istituzioni, rappresentanti politici, eccetera, ma non c'è stato nessun movimento politico nazionale che abbia voluto in qualche modo farsi portavoce delle istanze della Bassa Val di Susa. No, ma infatti mi sembra, visto che i partiti si sono tenuti piuttosto fuori, no, da tutta questa cosa, in ogni caso, anzi, c'è stata una certa latitanza, diciamo. Ma sì, quando è nato il movimento aveva al suo interno diversi militanti della Lega Nord e del PDS, che sono stati lentamente allontanati dai partiti di appartenenza perché è un argomento scomodo. Si parla di una valle già in grave crisi economica, sia la Bassa Valle per quel che riguarda un'economia più di tipo industriale, sia per l'Alta Valle che ha un turismo che sta andando scemando sempre più. E si parla di un cantiere di 30 anni con 54 milioni di metri cubi di smarino, cioè di terra che verrà tirata fuori da lì sotto. Vorrei ricordare che con l'ultima autostrada che è stata costruita, ad ogni buco che facevano nella montagna c'era una frazione a cui mancava l'acqua. Vogliamo ricordare anche che in Francia l'SNCF compra i terreni a prezzo di mercato pre-progetto in Italia, e lo fa sia sui due lati della ferrovia, sia sui terreni che per questioni di eco, è una vallata alpina, porca miseria, magari a chilometri di distanza si ritrovano ad avere il rumore di chi abita lì sotto. In Italia sono tutti affari nostri, cioè un valsusino deve mettersi purtroppo nell'ottica che se lavora col turismo deve cambiare mestiere, che se ha un bar lo deve chiudere, se ha un ristorante deve sperare di lavorare con gli operai che ci saranno per la costruzione, sempre che i vecchi del posto, perché non sono quelli della Scatasune, dei centri sociali di Torino, il vero problema per chi farà questi lavori, il vero problema sono i contadini di una certa età che sono pronti a far saltare in aria anche la montagna, pure di non farla passare. Beh, se quella è una valle speriamo che farà morire. Speriamo di no. Ma guardi, fra l'altro si stanno raccontando un fracco di balle anche su sto progetto. Io mi ricordo 15 anni fa, nel 97, si parlava di una tratta alta velocità, è diventata una tratta mista alta velocità, alta capacità, adesso è solo più merci. Poi è stato detto, è stato fatto un progetto, ne è stato fatto un altro, hanno detto che il costo è un terzo. No, hanno semplicemente, fate vedermi le carte su internet, hanno semplicemente cambiato la tratta presa in considerazione. Cioè prima il prezzo era da Torino al lato francese, adesso fanno solo il tunnel e ti dicono che costa molto meno, ma non è vero. Così come non è vero che è utile questa struttura. Questa struttura viene fatta e si sa sin dall'inizio, nel 97 mi hanno detto questo, l'Alpe Tunnel Gay, veniva fatta nella prospettiva di un futuro traffico merci. Il problema è che hanno raccontato balle agli abitanti del posto. Davide, dimmi una cosa, perché dicevi che nella parte alta della Val di Susa, cioè, la protesta è quasi inesistente, più verso il basso? Perché in Alta Val di Susa la tratta sarà completamente interrata e non vi è la coscienza da parte degli operatori turistici, non vi è la coscienza che avere un cantiere di 30 anni in bassa Val di Susa danneggia anche loro, dici. Porca miseria, non stiamo parlando del cantiere della piscina dietro la villa, stiamo parlando di un cantiere molto più simile al cantiere di una miniera. Quindi con dei tir, con delle ruote alte 3,5 metri, che nessuno parte da Torino per andare in vacanza a Bardonecchia dovendosi attraversare quella specie Davide, di Davide, ascoltami, è molto interessante quello che tu dici, benché uno può dire questo è il punto di vista di un valligiano, però se rimani, hai un po' di pazienza, hai un po' di tempo oggi per stare con me, con noi? Io faccio il cuoco e sono in servizio, però io rimango in attesa, se arriva qualcuno in attacco sapete che sto facendo un piatto di pasta. Intanto riesci a girare la pasta, a fare il sugo mentre... l'auricolare. Sempre con voi Roberta Giordano, qui a raccontarci le notizie della settimana e soprattutto a esprimere le opinioni sui tanti fatti, sulle cose che accadono e che ci riguardano tutti naturalmente, non possiamo stare chiusi dentro il nostro bozzo. L'opinionista estemporaneo di oggi è il giornalista e conduttore Corrado Augias, che dovrebbe aver raggiunto finalmente il suo albergo. È un buon albergo, Corrado? Buongiorno, sei tranquillo, benissimo. Senti Corrado, mentre tu raggiungevi il tuo albergo da Piazza Maggiore, ricordo, dove Corrado ha anche assistito naturalmente a Bologna ai funerali di Lucio Dalla, ci sono succeduti alcuni ascoltatori, uno in particolare Davide da Torino, che ha detto di conoscere molto bene la Val di Susa, che dava un po' le sue ragioni rispetto a questa protesta. Tra poco c'è Enrico e altri ascoltatori e ascoltatrici all'800 24 0024, ma vorrei, Corrado, che tu ascoltassi brevemente, Davide, se riesci a fare proprio un riassunto in pochi secondi di quello che hai detto prima, così Corrado Augias... Io ho chiamato in risposta alla telefonata precedente, soprattutto perché si parlava di una regia occulta dietro il Movimento No TAV. Spiegavo come il Movimento No TAV nasca in realtà in gran parte da professori del Politecnico, da personaggi che potevano essere i contadini della Bassa Valle, piuttosto che la mia professoressa di religione Barbara De Bernardi, che è stata per anni portavoce. Nasce per il fatto che è un progetto che comunque può essere messo in tutte le possibili sfumature, ma va a dare il colpo di grazia ad una vallata già in grave crisi, sia la Bassa Valle, che ha un'economia di tipo più industriale, sia l'Alta Valle, che ha un'economia di tipo turistico. Davide, allora, questa è la sintesi. Davide, intanto, Corrado fa il cuoco e sta girando la pasta e facendo il sugo, quindi gli diamo un attimo per... Che cosa pensi, Corrado, tu di questa vicenda? Penso che il governo dice delle cose opposte, e cioè che questi 6 chilometri che interesseranno la Val di Susa saranno intanto subito una fonte di lavoro e che poi in prospettiva, anche grazie alla stazione internazionale, aumenteranno il turismo invece di diminuirlo, come del resto pensano anche molti sindaci della valle. Dunque ritengo che si tratti di due posizioni contrapposte tra le quali bisogna mediare. E come si media, secondo te, Corrado? si media con, non certo rimettendo in discussione il progetto che è approvato da molti anni in varie sedi e contro le quali non c'era mai stata opposizione radicale. Le opposizioni, ricordo, all'inizio, come del resto l'ha ricordato molto più autorevolmente di me il sindaco di Torino, le opposizioni all'inizio erano sul percorso e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Su entrambi i temi, percorso e modalità di esecuzione, si è intervenuti accogliendo molte delle richieste e modificando e il percorso e le modalità. Adesso invece la protesta è diventata non la vogliamo per niente. Sono cambiati i dati di fatto. Bisognerà probabilmente ricominciare una mediazione, ma tenendo presente che il progetto non può essere cancellato. Intanto stavo guardando, per esempio adesso sul Corriere.it, che oggi c'è la manifestazione a Roma dei Notave, ci saranno 15 sindaci valsusini che dicono noi non ci stiamo. Tra poco c'è Enrico da Lecco, tu rimani Davide se puoi all'800 24 00 24. Vi leggo brevissimamente alcuni dei commenti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Monica che scrive: è arrivata l'ora di dialogare, fino ad ora i cittadini non sono stati ascoltati. La situazione allo stato attuale è un muro contro muro. Marino scrive: ma se si è rinunciato alle Olimpiadi, perché si dovrebbe fare un traforo superfluo da 60 km che costerebbe quanto due Olimpiadi? Daniele dice: non è mica detto che i giovani democraticamente eletti sappiano prendere decisioni sagge. Una ferrovia per il trasporto merci da Lisbona a Kiev, dice, neanche Jules Verne ci sarebbe arrivato. Per Emilio dice: io non ci capisco più niente, ma una cosa è certa, in giro vedo avanzare catrame e cemento sempre più rapidamente. La riflessione di Valentina dice: semplicemente uno Stato con interessi mafiosi vuole speculare su un'opera inutile scientificamente provato da molti luminari italiani. Sulle questioni mafiose questo lascerei perdere per il momento, poi ci potrebbero mai essere delle infiltrazioni, certo, come in tutte le grandi opere, in tutti i lavori dove ci sono soldi, dove ci sono appalti, insomma questa però è una cosa che bisognerà vedere poi. Enrica dice: è d'accordo con l'ascoltatore. Ecco, ci fermiamo qui. Enrico da Lecco. Poi la consultate voi, la pagina di Non ci sono più le mezze stagioni su Facebook. Enrico. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho fatto l'autotrasportatore fino a pochi anni fa. Sì. Io degli anni 70 passavo coi camion per andare in Francia. Allora non c'era ancora il tunnel del Freyus, si faceva il Mont Cenisio. Il Mont Cenisio a un certo punto veniva chiuso agli autocarri. Allora la domenica, il sabato andavo con la macchina in Francia e imbarcavo la macchina a Bardonecchia, perché allora si faceva col treno così. Da quando il traffico commerciale, quindi i camion, veniva sospeso perché non si passava più al Mont Cenisio, la Val di Susa era un deserto. Nei ristoranti dove pullulavano di camion, i distributori di benzina dove c'erano camion che facevano gasolio, dove c'erano dei camionisti francesi che si fermavano a comprare in Italia, no? Lì era morto, no? Poi hanno fatto il Freyus, la valle è stata, secondo me, diciamo rivivata, no? Cioè è stata data una vita ancora a questa valle, no? E poi quell'opera lì non è un'opera che devono decidere soltanto i cittadini della Valle di Susa. A parte che ho sentito quel signore che gira la pasta, deve continuare a girarla ancora, perché di camion con le ruote alte 3 metri ce l'ha nella testa solo lui. I camion con le ruote alte 3 metri. Vabbè, no? Rispettiamo anche il suo mestiere. Enrico, scusa, ma hai detto poi c'è il Frejus, di lì non si passa neanche da Frejus con i camion? No, adesso col Frejus si passa sempre, no? Ah. Però secondo me, io parlo da camionista, no? Far salire i treni su quell'altezza dove vanno i treni adesso non penso che sia l'ideale, perché i treni è bene che vadano piuttosto in piano, che si facciano delle gallerie, li fanno in tutto il mondo, fanno i ponti, in Danimarca hanno fatto un ponte per unire le due sponde, no? Ma solo noi che siamo in grado di dire di no, o sappiamo dire di no, perché quattro facinorosi mettono a far casino. Ma quelli questo, di Palermo o di Napoli o di Roma che fanno dimostrazione, ma l'ha mai vista la Valsusa quella gente lì? Ma l'ha mai vista? Guarda Enrico, visto che citi il sud, mi pare che ci sia Attilio da Siracusa all'800 24 00 24. Attilio, grazie Enrico. Ciao, sono Attilio, la mia domanda è questa, o meglio, più che domanda è riflessione. Sì. Se già mettono i camion 48 e anche 72 ore per far arrivare le arance e tutto il resto di ortofrutta dalla Sicilia ai mercati di Milano e del nord, quando arriveranno nei mercati di Europa utilizzando questo famoso spostamento merci. Cioè è una cosa questa che ti interessa perché dici potrebbe velocizzare i tempi o... No, li potrebbe velocizzare solo se parte un treno ad altissima velocità che da Reggio Calabria raggiunga la Val di Susa. Altrimenti è impossibile velocizzare questi tempi, perché il trasporto in Italia è tutto su gomme. Quindi vorresti tutto un tunnel praticamente dalla Val di Susa fino alla Sicilia? Non vorrei, una battuta, ritengo sia inutile far quello che stanno facendo, se non si accelera l'arrivo ai mercati del nord di tutta l'ortofrutta. Ma a parte questo, Attilio, scusa, dimmi una cosa, ma nella stessa Sicilia, a parte l'alta velocità in Val di Susa, ma non ci sono tantissime difficoltà di collegamento tra una città e l'altra, per esempio? No, non andrebbero credo. Già migliorate quelle, no? Non credo, perché no? Da Vittoria, prendendo la Ragusana, si arriva ai mercati di Catania o... No, ma a parte i mercati, io ricordo che comunque le strade, i collegamenti, sia ferroviari che le strade autostradali, non è che siano proprio una rete straordinaria, Attilio, da quelle parti. Comunque ti ripeto che dalle parti del Ragusano e dalle parti del Siracusano è abbastanza facile arrivare in tutti i posti. Il problema è un altro: come si attraversa tutta l'Italia con la merce fresca, visto che mediamente, grazie al regolamento sulle velocità, ci impiega dalle 48 alle 72 ore per poi trasbordare in questi treni merci. Che cosa? Roba che è già andata in marcescenza? Ho capito, Attilio, ti ringrazio intanto, salutaci Siracusa, è una bellissima città. C'è qualche problema di linea con Corrado Augias o tutto a posto, Corrado? No, sono qui. Ah, benissimo. Ricordo il libro appena pubblicato da Corrado Augias, che è Il disagio della libertà, perché agli italiani piace avere un padrone. Senti, a proposito di libertà, che diciamo è collegato al concetto di libertà, un po' diverso da quello che dici nel tuo libro, però riguarda sempre anche la cultura italiana, no, Corrado? Non so se tu hai seguito nei giorni scorsi, non credo, molto preso, la vicenda è partita da qui, dalla mia trasmissione, era presente Giovanardi, si è parlato di baci tra ragazze, è venuto fuori una specie di scandalo, no, sull'omosessualità, sul vedere due ragazze che si baciano alla stazione, eccetera, eccetera, anche se, diciamo, sta facendo il giro del web di tutto il mondo un bacio tra soldati marine che si baciano in America, uno che sta partendo con l'aereo. Roberta, sì. Io sono infastidito da queste storie vecchie, medievali, di tipo medievale. Ah, ecco, questo volevo sapere. Sì, no, io vorrei ricordare a Giovanardi che nella Basilica di Sì, io non sono cattolico, ma nella Basilica di San Pietro, centro della sua rituale e della sua religione, ci sono due tombe dedicate a due notori omosessuali, un uomo e una donna. Chi sono? La ex regina Cristina di Svezia e l'ultimo erede della dinastia degli Stuart. Quindi, per favore, mettiamoci d'accordo. O gli omosessuali stanno a San Pietro oppure vengono dannati dalle fiamme dell'inferno. Chiarissimo, chiarissimo, poteva essere più chiaro e sintetico Corrado Augias. Ma un'altra cosa invece, si parlava prima, intanto poi continueremo a parlare naturalmente della questione Notav, sulla rappresentanza politica e sempre quindi su una questione di cultura italiana, Corrado. Il fatto che si voglia un uomo forte, no? Quindi il padrone autoritario, quello che dice si fa così. Scriveva in questi giorni in un editoriale sul Corriere della Sera questa settimana Galli della Loggia che l'Italia, vabbè, non è una cosa nuova, dice, è veramente un'oligarchia di maschi ricchi in politica come la classe dirigente. Proprio un rapporto dell'ONU di due giorni fa, mi sembra, diceva che l'Italia, per i progressi nella politica, nella rappresentanza, è soltanto al 57esimo posto nel mondo. Si sono fatti dei progressi, diciamo, ma siamo ancora molto indietro. Perché questo paese continua a essere così culturalmente arretrato anche rispetto alla posizione delle donne, Corrado? Adesso abbiamo mescolato un bel po' di cose. Però c'è un filo rosso. Non è mica tanto. Ricordo che la posizione delle donne è un problema a parte. Se vuole ne parliamo, ma parliamo solo di quello, perché è importantissimo. Le elite politiche che sono prevalentemente maschili, in questo caso è collegato al proprio uomo e alle donne, e prevalentemente di elite, è un problema che condividiamo con tutti i paesi europei, perché non è che in Inghilterra o in Francia succedono cose diverse. Beh, perché c'è la Merkel, per esempio, sarebbe impensabile in Italia, no? In Germania. La signora Merkel, ma mica tanto, ha fatto una buona carriera politica all'ombra di Helmut Kohl, è figlia di un pastore, appartiene dunque alle classi dirigenti della ex DDR, poi confluite nella Repubblica Federale. È una donna che è arrivata a questi livelli altissimi e che tutti dicono è quella che condiziona l'Europa in questo momento, al di là che sia vero, però ha un ruolo pesantissimo, no? Sì, ma si figuri, lo metto in dubbio, non, non è questo il tema del contendere. Il tema del contendere è vero o no che in quasi tutti i paesi del mondo le classi dirigenti politiche appartengono, sono prevalentemente maschili e appartengono all'elite del paese? Sì, è vero. Quindi noi verremo dopo, ma seguiamo lo stesso andamento. Diverso il problema delle donne. Lì sì che il rapporto non dell'ONU ma dell'OCSE ha ragione, perché lì è chiaro che noi accumuliamo secoli di ritardo per quello che riguarda l'affrancamento della donna, che è stato accelerato negli ultimi decenni da due fattori, ma non ancora in maniera sufficiente. Il primo, che si è riusciti a separare l'atto sessuale dalla procreazione, il che ha dato alle donne una maggiore libertà. Lei dirà, ma solo di comportamento sessuale? No, non solo, perché da lì poi comincia, certo, partono la possibilità di occuparsi parto, di altro. Brava, esattamente, innumerevoli altre possibilità. E il secondo è che le donne hanno cominciato a lavorare, ancorché non in tutti i ruoli dirigenziali che meritano, e questo le ha affrancate dalla schiavitù, diciamo, tra virgolette, sia chiaro, al marito, il quale era l'unico che portava i soldi a casa e dunque la donna gestiva la sua vita, insomma. Ecco. Quindi insomma il problema è, io sono contrario a ridurre i problemi a schemini. Vedevo questa figura maschile autoritaria di cui l'Italia aveva bisogno, che comunque fosse un po' collegata anche a questo fatto, mi sembra, culturalmente. Comunque, a proposito di partiti, Corrado Augias, una ricerca di questi giorni pubblicata dal Corriere, un'altra fatta da Ennis sull'Espresso, parla di aperta crisi dei partiti. Solo 8 italiani su 100 li apprezzano. C'è Ivo Diamanti che dice addirittura 4 su 100, quindi cosa terribile. Siamo in una forbice tra 4 e 8, cioè niente. Ma è chiaro, è chiaro che è così. Il fenomeno si era già verificato negli anni tra il 92 e il 94. Tangentopoli. Appunto, con Tangentopoli che ci ha portato poi quelle cose, sfociano a destra, sempre per ipotesi di scuola, e ci ha portato a Berlusconi. Adesso il problema si ripropone ancora più grave per via che c'è la crisi economica terribile dalla quale forse stiamo uscendo. Quindi il primo a rimetterci in questi casi è la politica tradizionale. Però Ennis diceva anche un'altra cosa, se ricordo bene, cioè diceva che i partiti così come li abbiamo concepiti fino ad ora sono vecchi, sono formule, schemi e organismi vecchi, e lui li ritiene non più indispensabili, perché vede altre forme di organizzazione e canalizzazione del consenso nei nuovi strumenti di social web, insomma, tutti quei nuovi mezzi di comunicazione. Tu sei d'accordo? Io? Io sì, parzialmente, insomma, sai, sono fenomeni in divenire, quindi è difficile fare una diagnosi definitiva, però sicuramente i segni vanno da quella parte. Allora, adesso abbiamo un appuntamento dopo gli ascoltatori, 800 24 00 24, appuntamento con una commentatrice del Corriere della Sera, tutti conoscete, Maria Laura Rodotà. Il tuo punto di vista, una tua spigolatura di questa settimana, che ti ha colpito, Maria Laura? Non lo so, mi ha appena colpito, stavo facendo una riflessione assolutamente insensata sulle sepolture nelle basiliche vaticane e ho detto, ma insomma, Cristina di Svezia, una patrona delle arti e del dialogo europeo, discussa come Erdandi della banda della Magliana sepolto a Santa Pollinare, mi ero totalmente persa su questo. No, invece c'è una festa. No, ma non è discussa, è lì tranquilla, diceva giustamente Augias, sì, perché sì, si fanno tante polemiche. Sì. No, c'è una figura di cui ho sentito molto la mancanza questa settimana nel dibattito intenso sulla questione TAV-NOTAV. Qual era la figura che... L'ingegner Cane, te lo ricordi? Oddio. L'ingegner Cane della Gialappa, quello del ponte sullo stretto di Messina, quello interpretato da Fabio De Luigi. Cioè, era un argomento per lui, abbiamo sentito davvero in molti la mancanza del suo contributo, anche perché molti si sono sostituiti a lui intervenendo come inadeguate copie dell'ingegner Cane. Ecco. Maria Grazia, cercherò in qualche modo di compensare Grazie. Questa mancanza. Maria Laura. Scusa, perché c'è Maria Grazia da Roma, C'è Maria Grazia da Roma che riesce a dire proprio in 33 secondi, Maria Grazia, scusa, eri anche tu da Roma come Maria Laura. Sì. Scusa, prego. Sì, no, io volevo riguardo al non TAV e volevo rispondere anche a quel signore che è intervenuto prima, Paolo mi pare si chiamasse. Sì. Io non credo che Paolo, ci sia. Sì. Sì. Sì. Io non credo che ci sia una regia dietro il movimento No TAV. No, credo ma che ci siano cittadini assolutamente costernati, e siamo tantissimi, anche se non molti appunto italiani. Io vivo a Roma, però sono veramente costernata per questa situazione. Quindi tu ti senti partecipe di questa situazione, anche se sembra apparentemente lontana chilometricamente da te? Ma non è lontano per niente, perché quella montagna che sarà sventrata sarà piena di amianto. E quindi sarà pericolosissima anche per i lavoratori, sarà pericolosissima per i bambini che vivranno lì, in quella zona. Per cui mi dispiace anche tantissimo che si dica sempre un'organizzazione occulta, ma si pensa ai cittadini che ogni giorno devono lottare contro queste cose invece di andare al cinema o a divertirsi, a tutto il tempo che si deve dedicare a una situazione del genere, a tutte le preoccupazioni che questi cittadini hanno giornalmente. Maria Grazia, ti ringrazio e sto guardando anche, grazie da Roma, Daniele che scrive sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, ma per Paolo, l'ascoltatore di prima, le cose si fanno solo se si viene pagati e non per gli ideali. Per Luigi, Pier Giuseppe, scusate, scrive: le autorità della Val di Susa, non allontanando i gruppi eversivi, sono tacitamente colluse. Le autorità colluse con le forze eversive vanno esautorate, proprio come le autorità colluse con la mafia. Comunque ci sono lì, mi pare, schierati tanti poliziotti, forze dell'ordine, ci sono state anche polemiche in questi giorni. Abbiamo anche questa incursione velocissima con la nostra Valeria della Valle della Sapienza di Roma, alla quale sottopongo allora il termine No TAV. Certo, non andrei a cercare l'etimologia, che non sarà lontanissima come altre parole che valutiamo di solito. No, Valeria, è tutto facilissimo in realtà, perché l'espressione esiste dal 1996, proprio l'espressione No TAV. TAV ovviamente l'acronimo, quindi una parola composta dalle iniziali di treno ad alta velocità. La cosa interessante è che questa espressione No TAV è stata creata componendola con un prefisso non italiano, con quel no tipico dell'inglese, no? Quindi no war, no global, eccetera. Però oramai è penetrata largamente questo modo nella lingua italiana. Altra cosa interessante da un punto di vista linguistico è che No TAV, l'espressione, si è diffusa sia come sostantivo, perché diciamo i No TAV, la lotta dei No TAV, sia come aggettivo, la marcia No TAV, il movimento No TAV. Per chiudere, volendo come sempre sdrammatizzare, aggiungo che No TAV è espressione registrata già dal 2008 nei dizionari dei neologismi italiani, in particolare quello della Treccani. Quindi ormai, almeno da un punto di vista linguistico, non desta più nessun timore o sorpresa. Grazie Valeria Della Valle. E anche col notare abbiamo fatto queste esegesi del termine e raccontando appunto da dove viene. Non pensavo addirittura dal 96. Corrado Augias, c'è una notizia di cui non abbiamo affrontato fra le moltissime sulla quale vorresti ritornare prima di lasciarci. Sì, volevo ritornare un momento sulla, perché l'osservazione che ha fatto la gentile signora poc'anzi, dicendo qui la montagna è piena di amianto. Sì, e dicono anche di uranio. Di uranio, di amianto, di altre. Questo è il classico esempio di demonizzazione del problema, per non doverlo, che è tipico di una certa cultura parareligiosa, parareligiosa, attenzione, non voglio essere frainteso. Io ho letto una intervista del presidente dell'osservatorio sulla linea ad alta esplorativa che sta per essere iniziata, nel quale diceva: ci sono delle tracce di amianto, abbiamo preso tutte le precauzioni per questo, perché questo non danneggia, eccetera. Del resto dalla parte francese hanno già cominciato a bucare, quindi. Allora a chi devo credere? Alla signora che ha eretto davanti a sé la sagoma di Mefistofele, oppure all'ingegnere che presiede i lavori? È possibile che quell'ingegnere sia un venduto che dice delle cose false? Comunque, capisce sì. Il problema messo in questi termini non si risolve più, perché ci troviamo davanti all'irrazionale. Corrado, per chiudere, siccome abbiamo quei 33 secondi, io volevo chiederti, visto che il tuo libro si intitola Il disagio della libertà, tu sei più preoccupato dell'asteroide che nel 2040 dovrebbe colpire l'Italia, una possibilità su 625, o del fatto che noi continueremo a volere un uomo autoritario a comandarci? Nel 2040 sarò morto e sepolto, quindi non mi importa niente, egoisticamente. Un uomo autoritario a comandarci non è Monti tappa un buco, Monti è come Cincinnato, è stato chiamato, era al lavoro in un'università cincinnata in una vigna, è stato chiamato per fare un lavoro, ogni giorno ripete che finito il lavoro vuole tornare alla vigna o all'università. Quindi... speriamo in una svolta, almeno non autoritaria. Grazie Corrado Augias al suo libro Il disagio e la libertà, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.